La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net. Angiolino, le Janas e il ladro capovolto. Una fiaba scritta e messa in voce da Gaetano Marino. Tra le tante domus de Janas sparse per tutta l'isola di Hycnos, ci furono quelle abitate dalla grande stirpe di Grotta Fredda, una valorosa discendenza di Janas guerriere. Esse vivevano in grotte scavate sulla cima di una collina posta al fianco di un antico villaggio di pastori. Le Janas di Grotta Fredda, come quasi tutte le Janas, erano piccine, indossavano vesti di lino leggere e coloratissime e che ricavavano dai tessuti forgiati con il loro telaio d'oro massiccio e tempestato di pietre preziose. Durante il tempo che trascorrevano al loro telaio, le Janas cantavano. La loro voce ammutoliva i pastori nella dolcezza della loro natura selvaggia. Bastava poi un vento leggero perché i suoni dei telai e i canti delle piccole fate si spargessero per i campi lontani. A volte, però, ahimè, quei canti delle Janas risvegliavano negli uomini del vicino villaggio un irresistibile brama di avidità. In quel villaggio di pastori viveva un fanciullo che era rimasto orfano sin dalla nascita. La madre, che si chiamava Angiolina, era stata debole di salute a causa della malaria, una mortale epidemia per quel tempo. Ma nonostante quel male uccidesse migliaia di uomini e consapevole dei gravi rischi per la salute, Angiolina desiderò comunque avere un figlio. Quando venne il tempo di nascere, il triste destino bussò alle porte di Angiolina. Ella doveva scegliere tra la sua vita e quella del bambino. Angiolina scelse quella del figlio. E fu così che appena si sentì il primo vagito del neonato, Angiolina si addormentò per sempre. Al neonato diedero il nome di Angiolino, in ricordo della madre. Il padre di Angiolino, non riuscendo a sopportare il dolore per la morte della moglie amata, sentì il cuore spezzarsi e, afflitto dal dolore, si addormentò pure lui per sempre. Angiolino restò solo. Nei primi anni si prese cura di lui una povera zia, sorella del padre. La donna ricevette la carità di un po' di latte e qualche tozzo di pane dai vicini per nutrire il nipote, ma poi anche lei si ammalò di malaria e s'addormentò nel dolce lungo sonno. Angiolino a quel tempo aveva quasi 6 anni. La gente del villaggio viveva di fatica e stenti. Il povero fanciullo non aveva greggi da custodire e quelli che riuscivano a portare al pascolo le poche capre o pecore che possedevano si cibavano del magro latte. Raramente, ma era quello giorno di grande festa, arrivava a tavola qualche pezzo di ricotta o di formaggio. Angiolino fu comunque accolto in casa da una parente lontana, perché in quel tempo ci si aiutava tutti. Dove ci sono 10 bocche, possono starcene anche 11. E il fanciullo ricambiò con qualche lavoro, specie con l'intaglio nel legno, in cui era bravissimo e gli veniva persino facile. Nessuno sapeva dove avesse imparato. Il ragazzo tirava fuori da un qualsiasi tronco di legno raccolto nei boschi ciotole, bicchieri, piatti e utensili. Era così abile che a volte intagliava bambole e cavallucci da donare ai suoi compagni. Trascorse qualche tempo, ma la carestia non passava, finché Angiolino si rese conto che la sua bocca levava il pasto ad altri. Il giovane decise allora di abbandonare il villaggio. Ringraziò i suoi benefattori, prese un pezzo di pane con qualche cipolla e se ne andò. Nessuno seppe più nulla di lui. Molti erano sicuri che Angiolino fosse morto di malaria, come tanti in quel tempo, o forse era stato divorato dai lupi, oppure, peggio ancora, fosse morto di fame. Beh, niente affatto. Angiolino era vivo, e come, ed era cresciuto sano e forte, perché il bisogno, si sa, è pane di speranza che sfama, nutre coraggio e infonde caparbietà. Cosicché, nel tempo, Angiolino aveva trovato una piccola grotta nascosta tra i cespugli della collina di Grotta Fredda. Raccoglieva nei dintorni legna e fascine. Sapeva distinguere bacche velenose e frutti buoni da mangiare. Riconosceva le erbe da mettere sul fuoco e con l'arte dell'intaglio riusciva a far per sé utensili di ogni genere. Un giorno forgiò arco e frecce da un grosso tronco di ginepro, ricavò una corda resistente ed elastica dalle radici di eucalipto e si dedicò alla caccia. Intagliò pure uno zufolo da un ramo d'olivastro ed imparò a suonarlo. La sera, prima del dolce sonno, Angiolino si lasciava cullare dai canti della natura, ma non c'erano solo quelli. Egli sapeva che proprio da quelle parti ci stavano le Domus Dei Anas di Grotta Fredda. Lui non aveva mai visto le Anas, perché sapeva che era proibito guardarle, ma sentiva bene la loro voce melodiosa. Poi venne una notte in cui Angiolino volle accompagnare il canto delle piccole fate con il suo zufolo. Le Anas, che erano di natura diffidente, alle prime note fuggirono via sibilando per i monti. Angiolino però sorrideva. Era sicuro che le Anas, prima o poi, sarebbero state attratte dalla musica del suo zufolo. E aveva ragione. Le Anas uscirono pian piano dalle loro domus e si unirono a distanza con i loro canti alla musica dello zufolo. Tutta la collina fu invasa dalla bellezza di quelle voci soavi, accompagnate da una musica dolce. Nonostante tutto, Angiolino, che conosceva la timidezza delle Janas, non volle mai farsi vedere e, dopo tutto, che bisogno poteva averne? Le sentiva cantare e a lui bastava così. Solo quando le Janas andavano alla fonte, lui s'avvicinava rapido alle loro dimore e vi lasciava accanto i suoi doni: erbe da cucinare, ciotole intagliate, mazzi di fiori di campo. Qualche volta spazzolava pure la terra, finché un giorno Angiolino avvolse il suo zufolo in una foglia di fico, lo legò bene con i fili di radice e lo depose davanti alle domus dei Janas. Quella notte stessa Angiolino sentì la musica del suo zufolo accompagnare i canti delle Janas. Dopo qualche giorno, il giovane ragazzo trovò al suo risveglio, fuori dalla grotta, i doni delle Janas: miele, dolci, liquori di mirto, fichi, frutti sconosciuti e altre prelibatezze. Le Janas e Angiolino erano diventati amici, pur non avendo bisogno di incontrarsi, perché ciascuno conosceva i propri confini e li rispettava. Andò così per giorni e giorni. Una mattina, quasi al sorgere del sole, Angiolino sentì qualcuno entrare nella sua grotta. Si svegliò rapido e afferrò il suo arco, prese una freccia e tese la corda, stando pronto a colpire. La luce del sole avanzò nella grotta e l'intruso, anzi gli intrusi, erano due volpi. Angiolino restò immobile e si domandò, silenzioso: forse quelle volpi cercano cibo, o forse sto ancora nei sogni? Una delle volpi chinò il muso a terra, s'accucciò e disse: salute a te, figliolo. L'altra volpe, che stava al suo fianco, si avvicinò ad Angiolino, lo annusò bene e lo leccò sul viso, sul collo, sulle braccia, proprio come fanno le mamme con i loro cuccioli. Poi parlò: non aver paura, mio dolce angelo, sono tua madre, Angiolina, e lui è tuo padre. Siamo stati mandati qui dalle Janas, che tu conosci bene, per ringraziarti di quello che fai per loro. Angiolino accolse con gioia il padre e la madre nella grotta, e la famiglia si ritrovò. Da quel tempo furono giorni di gioia e serenità. Pareva che nulla turbasse quella gioia. Ma poi venne un giorno in cui accadde quel fatto terribile. Il cielo era così bello e così azzurro da sembrare dipinto, mentre stava pronto ad accogliere il carro del sole. Le Janas avevano aperto come sempre le porte delle loro case per far pulizie e battere i tappeti. Quindi, terminate le faccende di casa, arrotolarono il fazzoletto sulle teste, vi posero sopra le brocche e se ne andarono fluttuando nell'aria verso la fonte vicina. Angiolino sapeva che quello era il momento giusto per portare i doni alle fate. ma quando fu vicino alle domus dei Anas, sentì un rumore provenire da una delle grotte. Forse qualche Iana s'era ancora trattenuta in casa, ma quello era il rumore di uno scalpello battuto sulla roccia. Angiolino, sapendo del telaio d'oro custodito dalle Ianas, sospettò subito quale fosse la causa di quel battere. Qualcuno voleva rubarlo. Il ragazzo corse alla sua grotta, dove prese arco e frecce, e rapido si precipitò alle domus dei Ianas. Quando vi giunse, s'acquattò all'uscio e vide dentro due briganti che avevano aperto un foro sul pavimento roccioso. Quei malviventi si guardarono attorno e rapidi gettarono attraverso quel foro le funi nella stanza di sotto. Era proprio quella dove stava il telaio d'oro. Uno dei due legò una fune al fianco e si calò stando a testa in giù. Portava con sé una lanterna per osservare quel che stesse di sotto. L'altro lo teneva di sopra con una fune, puntando i piedi su una piccola roccia. Quando il ladro fu a metà dentro, sussurrò esultando: «È qui! Il telaio! È qui! Che meraviglia! È tutto d'oro, oro pieno di diamanti intorno! Siamo ricchi, compare, ricchissimi! Che meraviglia!» Mentre esultava a testa in giù, quel ladro capovolto sentì l'imboccatura del passaggio improvvisamente stringersi forte attorno ai fianchi, e stringeva sempre di più fino quasi a togliergli il respiro. Che mi sta succedendo? Aiutami! Aiutami, compare! Tirami su! Tirami su! Mi stringe qualcosa! Mi stringe nella vita! Non respiro più! No, non riesco a muovermi! Tirami fuori! Tirami fuori, maledizione! Gridava il ladro, incagliato. Si vedevano agitarsi disperate le gambe sue all'aria, finché non si mossero più e restarono rigide, dritte come due pali piantati al suolo. E ci fu silenzio. Il compagno, che lo teneva, sentì il terrore aggrapparsi alla sua schiena. Come poteva stringersi la roccia? Chi poteva avere quella forza? E quando vide le gambe del compagno rigide e tese all'insù, lasciò la fune e scappò via, rapido, con la disperazione e l'orrore negli occhi. L'altro brigante, ladro capovolto, rimase come fosse stato preso in una tagliola per lupi, con mezzo corpo di gambe di sopra terra e l'altro mezzo corpo incagliato di sottoterra, finché si trasformò, riflesso sulle pareti come un'ombra, e lì rimase, e là ancora sta. Ma nessuno ha mai ritrovato il suo corpo. Angiolino ammutolì, poi raccolse l'arco con le frecce e se ne tornò nella sua grotta. Da allora quella figura d'uomo fu chiamata il ladro capovolto, ladro della vita di malfattori e traghettatore verso gli inferi, colui che univa il mondo dei vivi con quello dei morti. Quella notte stessa, sotto le stelle, come sempre, ci furono le danze delle Ianas di Grotta Fredda, che si sentirono in ogni dove, mentre Angiolino si univa alla festa suonando il suo nuovo zufolo dalla sua grotta con accanto sua madre e suo padre, come sempre e per molti anni ancora. Avete ascoltato Parole di Storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net